La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato a Europeana 1914-1918, il più grande progetto europeo di raccolta e digitalizzazione delle memorie della Grande Guerra. Ospite ai nostri microfoni Rossella Caffo, direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato al film Salvate il soldato Ryan, una delle descrizioni più intense e realistiche della guerra, portata sul grande schermo dal regista Steven Spielberg. L'incredibile, misconosciuta storia che ha ispirato quella del film non ha nulla da invidiare a quelle immaginate da Hollywood. La parola adesso va a Dino Pesole. Europeana is Europe's multilingual digital library, museum and archive, available worldwide online. È il più imponente progetto europeo di raccolta e digitalizzazione delle memorie della Grande Guerra. Ideato e realizzato in vista del centesimo anniversario della Prima Guerra Mondiale nel 2014, vale a dire l'anno prossimo. Evento aperto e dedicato alla gente comune, alle proprie storie di famiglia. Stiamo parlando di Europeana 14-18, progetto europeo che in Italia è sostenuto dal Ministero per i Beni Culturali e che finora ha reso possibile la pubblicazione sulla propria piattaforma di oltre 50.000 foto di oggetti, lettere e diari storici che risalgono al periodo della Grande Guerra. Dopo la prima tappa italiana di Trento del 16 marzo scorso, dove sono state raccolte oltre 2.000 immagini digitali, Europeana 14-18 è giunta a Roma. Cimeli, lettere, fotografie, diari, materiali di altro tipo che risalgono alla Prima Guerra Mondiale sono stati raccolti presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. La Grande Guerra vissuta dalla gente comune. Le tappe italiane di Europeana 1914-1918 si collocano sulla scia degli eventi già svolti in Germania, Regno Unito, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Slovenia, Danimarca e Cipro dal 2011. Entro il 2014, centenario dello scoppio del conflitto, il progetto renderà disponibili online 400.000 oggetti digitali relativi a materiali di rilevante interesse per l'informazione e per la ricerca storica sulla Grande Guerra, quali libri, giornali e riviste, mappe, documenti d'archivio, filmati, materiale di propaganda, manifesti, fotografie, medaglie, monete, uniformi, bandiere. Studiosi, ricercatori o semplici cittadini potranno interrogare le fonti più svariate ed elaborare nuovi percorsi di ricostruzione storica e interpretazione della Grande Guerra. La memoria della Grande Guerra, con gli eventi, le conseguenze, le vittime, i vincitori, è ancora oggi molto viva ed è diventata parte integrante della nostra storia collettiva. Se il progetto nazionale è importante per il rafforzamento del processo di identità del nostro paese, quello europeo aprirà la strada a nuove interpretazioni della storia, della cultura e anche della vita sociale, contribuendo al consolidamento di una comune identità europea. La raccolta di racconti online è stata inaugurata nel marzo del 2011. Al sito chiunque può aggiungere il suo campo di raccolta insieme con le sue storie, un materiale che va ad arricchire il patrimonio di testimonianze orali di cui già possiamo disporre, come questa testimonianza di Vittorio Emanuele Orlando. Siamo al 22 dicembre del 1917 e questo è il discorso di insediamento di Vittorio Emanuele Orlando dopo la disfatta di Caporetto. La voce dei morti è la volontà dei vivi, il senso dell'onore e la ragione dell'utilità concordemente, solennemente, si rivolgono adunque un ammonimento solo, si additano una sola via di salvezza, resistere, resistere, resistere. Diamo il benvenuto a Rossella Caffo, che è direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane. Buonasera, dottoressa. Buonasera, buonasera. Ci racconti un po' allora più nel dettaglio gli scopi, le finalità di questa iniziativa che mi sembra di poter dire è unica nella storia del nostro paese e nella storia europea. Sì, è un'iniziativa molto importante ed interessante. Dunque, voglio fare una precisazione. Questo progetto lanciato da Europeana 1418 si rivolge effettivamente alla raccolta delle memorie private, delle memorie conservate dai singoli, dalle famiglie, ed è questa la novità e la cosa interessante e importante, perché in realtà documentazione istituzionale, ufficiale sulla Prima Guerra Mondiale ce n'è tantissima. Mm-hmm. Noi abbiamo già dal 2006, per esempio, avviato una raccolta, abbiamo realizzato un portale nazionale che si chiama, è disponibile all'indirizzo www.1418.it, e in realtà questo portale raccoglie che cosa? Raccoglie la documentazione ufficiale, quella custodita dalle biblioteche, dagli archivi, dalle istituzioni culturali, ed è rappresenta appunto un nucleo importante, importantissimo. Noi abbiamo infatti già in linea 160.000 documenti provenienti da varie biblioteche, dalla Biblioteca Nazionale Centrale, Alessandrina, l'Istituto, il Museo del Risorgimento, e anche stanno collaborando anche corpi militari, la Marina Militare, eccetera. Mm-hmm. E quindi in realtà già questa sensibilità e l'importanza della raccolta di materiale sulla Prima Guerra Mondiale era già presente, perché ci stiamo preparando in effetti alla celebrazione del centenario dello scoppio del conflitto. Ecco, lei diceva poc'anzi le memorie private. Ecco, la cosa interessante invece è questa, che grazie all'iniziativa di Europeana si è avviato questa attività, questo movimento di raccolta di memorie private, e sono poi di tono diverso, perché naturalmente documentazione ufficiale è una documentazione che tende a edulcorare un po' le situazioni, gli orrori della guerra. Invece questo tipo di altra documentazione emerge la realtà la crudezza, diciamo, della vita di trincea, anche della vita delle famiglie che aspettavano a casa. E quindi ecco, nasce questa raccolta. Noi abbiamo organizzato a Roma questo Collection Day, cioè il giorno della raccolta. Abbiamo invitato, attraverso anche i nostri siti, gli organi di stampa, la gente comune, la popolazione, i privati, a venire nella Biblioteca Nazionale Centrale, che era il presidio, che era il punto di raccolta. E le persone in realtà hanno risposto al nostro appello, sono venute numerose, io qui ho un po' di numeri, portando proprio documenti, cimeli, lettere, fotografie, e noi abbiamo quindi digitalizzato in tempo reale, quindi abbiamo organizzato un'attività di digitalizzazione. Ma c'è una selezione, dottoressa, immagino? No, abbiamo fatto una selezione, perché in realtà noi abbiamo avuto, le do un po' di numeri, noi abbiamo avuto circa 80 persone che sono venute, ci hanno portato 605 oggetti che sono stati digitalizzati nello stesso giorno in tempo reale e restituiti ovviamente, gli originali restituiti ai proprietari. Abbiamo poi raccolto delle storie, quindi c'erano delle persone, lo staff, diciamo, dell'istituto, coadiuvato dallo staff della Biblioteca Nazionale, abbiamo raccolto e registrato storie che venivano raccontate da parenti, da amici, storie molto, molto commoventi, e tutto questo poi sarà reso disponibile prima di tutto sul sito Europeana 1418, ma andrà anche a costituire una sezione speciale di quel portale nazionale di cui parlavo prima, certo. www.1418, e quindi grazie a questa iniziativa quindi alimentiamo con un tipo di documentazione del tutto diversa, ma altrettanto se non più interessante, tutta quella documentazione ufficiale diciamo, certo, che abbiamo raccolto. Le prossime tappe, ce n'è un'altra, è stata in realtà un'altra il 18 maggio a Valli del Pasubio in provincia di Vicenza, perché dunque la raccolta in Italia si è sviluppata in tre luoghi, è stata organizzata in tre luoghi. Il primo a Trento, quindi il 16 marzo, poi come è stato ricordato, poi a Roma e poi Valli del Pasubio, quindi due nelle zone di guerra, diciamo così, nelle zone che sono state teatro della guerra e una a Roma. Ora il progetto Europeana 14-18 ha organizzato questi eventi, però si rifletteva insieme ad alcuni colleghi sul fatto che in realtà le celebrazioni iniziano nel 2014 e quindi dureranno la durata della guerra e probabilmente siccome sono in campo e saranno in campo tutta una serie di iniziative, comitati nazionali eccetera, non è escluso che, dato anche la risposta così sì, entusiasta, certo, incoraggiante, dire, diciamo, non è escluso che se ne possano organizzare altre di giornate magari in città diverse, in modo da ascoltare e raccogliere le voci anche di altri territori italiani. Bene, grazie dottoressa Caffo, ricordo direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane. Buona serata. Buonasera, grazie a lei. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato al film di Steven Spielberg Salvate il soldato Ryan. Il film narra il temerario salvataggio del soldato Ryan, l'unico sopravvissuto di quattro fratelli impegnati in guerra. La pellicola è celebre per il suo realismo, ma fino a che punto il monumentale film di Spielberg è plausibile? Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda giovedì 30 maggio alle 14:15 su History Channel. La costa della Normandia, nel nord della Francia. Il 6 giugno 1944, questa spiaggia, nome in codice Omaha, fa da cornice alla più cruenta battaglia dello sbarco degli alleati. 50 anni dopo, il regista Steven Spielberg propone una vivida ricostruzione della carneficina per il suo grande film di guerra, Salvate il soldato Ryan. Anche se le sanguinose scene di battaglia alimentano forti polemiche, secondo molti veterani e storici, il film descrive con notevole autenticità l'orrore degli sbarchi del D-Day. Tra quelli che hanno vissuto quell'esperienza in prima persona c'è il veterano Harley Reynolds, che all'epoca ha appena 22 anni. Quando mi chiedono che cosa si provava, come ci si sentiva, io rispondo sempre: avete visto il film Salvate il soldato Ryan? Se non l'avete fatto, dovreste vederlo assolutamente, perché spiegherebbe tutto molto meglio di quanto possa fare io. Per rendere la celebre sequenza di apertura di Salvate il soldato Ryan il più possibile realistica, Spielberg usa migliaia di comparse. Più di 160.000 soldati alleati prendono parte alla più grande invasione anfibia della storia. Il film comincia con una flotta di mezzi da sbarco diretti verso la Francia occupata. Proprio come accade durante il D-Day. Nonostante l'inizio del film sia celebre per il suo crudo realismo, gli storici hanno messo in discussione alcuni particolari tecnici. Simon Trew, storico Royal Military Academy. Uno degli errori più marchiani salta all'occhio proprio nelle scene di apertura, vale a dire quando gli americani si stanno avvicinando alla spiaggia a bordo di mezzi da sbarco e veicoli americani guidati da personale statunitense. In realtà la seconda ondata di battaglioni sbarca sui Landing Craft Assault, mezzi di fabbricazione inglese governati da equipaggi inglesi. Sui mezzi americani solo la rampa era corazzata e in grado di resistere alle pallottole delle mitragliatrici. Invece sulle imbarcazioni inglesi anche il resto, compresa la copertura che proteggeva una parte dei soldati, era coperto da lastre corazzate. Durante lo sbarco, le truppe americane usano gli LCVP, le celebri Higgins Boat, di fabbricazione statunitense. Ma in realtà il secondo battaglione Ranger di Tom Hanks viaggia a bordo di mezzi inglesi. A differenza dei mezzi da sbarco inglesi, le Higgins Boat sono di compensato, e dunque sono economiche da produrre in un'epoca che sta mettendo a dura prova le casse statali. Ma il fondo piatto rende le imbarcazioni americane estremamente instabili nel mare in tempesta del D-Day. In Salvate il soldato Ryan, come accade nel D-Day, molti fanti si tuffano dalle fiancate dei mezzi da sbarco in avvicinamento alla spiaggia, nel tentativo di schivare le raffiche nemiche. Ma nel film le pallottole tedesche si rivelano micidiali anche sott'acqua, uccidendo diversi soldati prima ancora che possano riemergere in superficie. Invece di offrire una protezione, per molti uomini il mare si trasforma in una tomba. Ma una pallottola può davvero uccidere sott'acqua? O è solo una leggenda hollywoodiana? Una pallottola sott'acqua è inefficace. Pur di aumentare l'impatto drammatico della scena, Hollywood piega alle proprie esigenze anche le leggi della fisica. Ma su un altro particolare il film non esagera. Molti dei soldati che si tuffano in acqua per proteggersi affogano sotto il peso del loro stesso equipaggiamento. Quelli che riemergono dall'acqua devono affrontare il fuoco dell'artiglieria pesante, milioni di mine e l'implacabile martellamento dei mortai. In Salvate il soldato Ryan, Tom Hanks rimane assordato per qualche istante da un colpo di mortaio che gli esplode alle spalle. Ma quali sono gli effetti di un proiettile di mortaio che esplode ad una distanza simile? Sappiamo che sul set Tom Hanks si trova a 20 metri da una carica preparata dalla troupe degli effetti speciali, molto meno potente di un colpo di mortaio. Dunque, quando ci mostra che l'esplosione a 20 metri di distanza causa a Tom Hanks una sordità temporanea, il film dice la verità. Harley Reynolds, veterano del D-Day. Le onde d'urto delle esplosioni scuotono il corpo come fosse gelatina. È una sensazione terribile. Per 2 o 3 giorni io ho perso l'udito. Durante il D-Day, i colpi di mortaio piovono su tutta la spiaggia. Per i soldati che sono più vicini all'esplosione di un proiettile, gli effetti sono devastanti. In una vera esplosione di mortaio, le schegge ridurrebbero la carne umana a brandelli, provocando ferite gravissime o persino la morte. Ma grazie alla moderna scienza, sappiamo che anche quelli non dilaniati dalle schegge potrebbero soffrire un danno invisibile ma devastante, la sindrome da distress respiratorio. L'enorme forza di un'onda d'urto perfora il tessuto polmonare e i vasi sanguigni, che riempiono i polmoni di sangue. La capacità di respirare e di irrorare il corpo di ossigeno è ridotta sensibilmente e la vittima nega nel proprio sangue o soffoca. La sindrome da distress respiratorio uccide dopo una lenta agonia. Proprio come accade nel film di Spielberg, il bombardamento di potenti, assordanti colpi di mortaio provoca la morte e la mutilazione di molti soldati. I sopravvissuti della seconda unità di Ranger di Tom Hanks lasciano la spiaggia per poi conquistare una casamatta nemica. Dopo che gli alleati assumono il controllo delle spiagge, Hanks riceve nuovi ordini. Deve rintracciare un militare oltre le linee nemiche, il soldato Ryan. Ma è plausibile che il comando affidi al secondo battaglione Ranger una missione del genere? Simon Trew, storico Royal Military Academy. Di fatto i Ranger dell'esercito degli Stati Uniti erano un corpo d'élite, l'equivalente dei comando dei Royal Marine inglesi, delle forze speciali. E gli venivano affidate missioni complesse, ma francamente mi sembra alquanto improbabile che 8 di quegli uomini potessero essere inviati in una missione come quella descritta nel film. Dunque i Ranger non verrebbero mai impiegati per il recupero di un unico soldato. Vengono usati per catturare obiettivi strategici in situazioni di grande pericolo. Ma la trama si ispira ad una regola effettivamente in vigore presso le forze armate americane. Viene introdotta 2 anni prima del D-Day, in seguito alla tragedia che colpisce un'intera famiglia durante la campagna nel Sud Pacifico. Geoff Wouro, direttore Università del Texas, Centro di Storia Militare. I 5 fratelli Sullivan, George, Frank, Joe, Matt e Al, si arruolano in marina a condizione di poter restare insieme sulla stessa nave. Abitavano tutti nella loro casa a Waterloo, in Iowa, e volevano combattere insieme in guerra, vivendo a bordo della stessa nave. I Sullivan vengono inviati nel Sud Pacifico nell'ambito della campagna di Guadalcanal, un'epica battaglia durata 6 mesi. È la prima massiccia offensiva alleata contro i giapponesi dopo l'attacco su Pearl Harbor. A 3 mesi dall'inizio della missione, la loro nave incontra un sottomarino nipponico. e accade il disastro. Geoff Wouro, centro di storia militare. La USS Juno è stata colpita da un siluro. In serata, mentre rientrava per essere riparata, è stata colpita da un secondo siluro che l'ha fatta saltare in aria. 600 dei 700 uomini di equipaggio sono morti nell'esplosione della Santa Barbara. La nave da 6.000 tonnellate impiega appena 20 secondi a colare a picco. Tre fratelli Sullivan vanno a fondo con la nave. I due sopravvissuti, Al e George, raggiungono le scialuppe. Geoff Wouro. Al è sopravvissuto un altro giorno in mare, mentre i suoi commilitoni morivano sbranati dagli squali o a causa dello sfinimento, della sete, della fame, degli elementi. Alla fine si è lasciato annegare anche lui e il giorno dopo George, completamente devastato dalla morte di tutti i suoi fratelli, ha finito per lanciarsi dalla scialuppa. I superstiti dell'equipaggio del Juno vengono recuperati dopo 8 giorni. Dei 700 uomini dell'equipaggio, solo 10 sopravvivono. Tutti e 5 i fratelli Sullivan muoiono, cancellando in un colpo solo il futuro dell'intera famiglia. La reazione dell'opinione pubblica costringe le forze armate a introdurre la regola dell'unico sopravvissuto. In base alla regola, l'ultimo fratello in servizio ancora in vita può essere allontanato dalle zone di guerra per motivi di famiglia. È questa la regola su cui prende forma l'idea per il film di Spielberg. Dopo l'esplosiva battaglia iniziale della pellicola, 3 dei fratelli Ryan risultano morti. E la storia si focalizza sulla ricerca dell'unico fratello sopravvissuto, interpretato da Matt Damon. La storia dei fratelli Ryan è quasi identica al tragico caso dei fratelli Nyland di Tonawanda, nello stato di New York. Geoff Wouro, centro di storia militare. I fratelli Nyland erano 4 e tutti hanno prestato servizio durante l'ultima guerra, proprio come i fratelli Ryan della pellicola. James Francis Ryan era un paracadutista e lo era anche Fritz Nyland. Altri 2 fratelli sono stati uccisi durante lo sbarco in Normandia. Il fratello di Fritz, Ed Nyland, viene abbattuto in Birmania. L'aereo di Daniel Ryan precipita sulla Nuova Guinea. Fritz Nyland viene allontanato dal fronte per la regola dell'unico sopravvissuto, proprio come il soldato Ryan del film. Nella pellicola di Spielberg, anche uno dei fratelli Ryan, Daniel, viene abbattuto nel Sud Pacifico. Ma il protagonista della storia è il paracadutista Ryan della 101esima divisione aviotrasportata, la stessa divisione del sergente Fritz Nyland. Il veterano Carl Beck si trova sullo stesso aereo a bordo del quale Fritz viene trasportato in Normandia durante il D-Day. Era un ottimo leader, un soldato affidabile, capace e leale. Il nome di Fritz Nyland era sinonimo di lealtà, perché era un uomo sincero ma aggressivo, in gamba, di grande coraggio. Il film di Steven Spielberg si conclude con una scena evocativa in un cimitero americano in Normandia. Ogni giorno centinaia di persone visitano queste tombe per rendere omaggio alle migliaia di coraggiosi soldati che hanno dato la vita per la liberazione dell'Europa. 2 delle tombe più visitate sono quelle di Robert e Preston Nyland, il cui sacrificio non è stato dimenticato. A quasi 70 anni di distanza dall'entrata in vigore, la regola dell'unico sopravvissuto che ha ispirato Salvate il soldato Ryan continua a impedire che intere generazioni siano spazzate via. Salvate il soldato Ryan ha avuto il grande merito di mostrare agli spettatori di tutto il mondo gli orrori e la brutalità della guerra. Nonostante alcune forzature imposte da esigenze cinematografiche, Spielberg è comunque riuscito a rendere un toccante omaggio al coraggio di un'intera generazione. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Salvate il soldato Ryan, la vera storia. Regia Toby Trackman, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione BBC. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda giovedì 30 maggio alle 14.15 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.